Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti una buona giornata. La pensione, punto interrogativo, non ci pensiamo o forse non riusciamo a pensarci, è una situazione di scarsa consapevolezza purtroppo quella che caratterizza le generazioni di italiani attualmente in età lavorativa, presi naturalmente, è comprensibile questo atteggiamento, è chiaro, perché siamo tutti un po' presi dalle difficoltà del momento che non sono poche, con fatica ci si proietta sul futuro. D'altronde tra i grossi problemi dei lavoratori esodati, i problemi di quelli che sono alle prese con le ricongiunzioni onerose delle quali si occupano anche alcuni giornali questa mattina, potete immaginare quanta attenzione ci possa essere sul tema della pensione integrativa, visto che il dibattito in questo momento si sta concentrando su altro quando appunto si pensa a noi appunto in un futuro pensionistico, in un'ottica di futuro pensionistico. Però è un dato di fatto ormai mentalmente acquisito da tutti che la pensione arriverà più tardi, sarà più bassa rispetto a quanto è successo ai nostri genitori e quanto appunto sono riusciti a percepire al termine della loro carriera lavorativa. Sono dati chiari alla luce dell'aspettativa di vita, delle difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro e delle nuove regole introdotte dalle recenti riforme. Nonostante questi dati però solo un quarto degli italiani pensa alla previdenza complementare e a garantirsi un secondo pilastro, e recentemente anche la Corte dei Conti ha toccato all'interno della relazione sulla gestione finanziaria questo tema, sottolineando l'importanza di rilanciare la pensione integrativa. Il tema è con quali risorse si può fare questo rilancio. Oggi a Salva Danaio torniamo a parlarne per aggiornarvi sugli ultimi dati, per chiedervi cosa ne pensate, come mai si fa fatica ad avvicinarsi a questi strumenti. Il principale lo conosciamo, la crisi che ci impedisce di risparmiare, e oggi cercheremo anche di capire come fare per iniziare nonostante tutte le difficoltà a progettare un piano appunto di questo tipo. Con noi Nadia Vavassori, responsabile business unit di Seconda Pensione di Amundi SGR, fondo pensione aperto. Amundi è una società di asset management che nasce dalla integrazione tra Crédit Agricole e Société Générale, ho detto tutto correttamente se non mi ricordo male il passaggio, corretto. Quindi matrice francese dove la previdenza complementare ha una storia probabilmente più consolidata dell'Italia, ma a parte questo noi cercheremo di capire qual è la situazione in Italia. Lo faremo insieme anche a Michele Spagnolo, direttore vita e previdenza di AXA MPS. Dottor Spagnolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, ascoltatori che naturalmente lei li ha salutati e possono intervenire chiamandoci all'800240024, ci possono scrivere al 349-238-6666, ci potete scrivere all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, ci potete scrivere su Facebook, il nostro profilo è a salvadanaio-radio24 e chiaramente potete anche twittare su @salvadanaio24. La borsa l'ho già raccontata, direi che possiamo tenerla molto breve questa mattina, l'aggiornamento sui mercati finanziari l'abbiamo appena fatto nel GR. Situazione di debolezza per gli indici che perdono un po' del terreno preso ieri, -0,20% adesso a Milano, con i cali molto forti di alcune aziende che hanno rassegnato la trimestrale. Bocciata senza pietà quella di Mediaset, -5,57%, MPS -4,62%, Tots -3,64%, Popolare dell'Emilia Romagna -2,27%. In positivo abbiamo STM +2,33%, Enel +1,38% anche in questo caso dopo i conti, Fiat Industrial +1,37%, Finmeccanica +1,19%. Spread in discesa a 357,58 punti, quindi sotto i 3,60, euro su dollaro a 1,27,39. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, la previdenza complementare. Le nuove regole previste dalla riforma Monti-Fornero hanno sicuramente messo in allarme molti italiani in materia di pensioni. Alle preoccupazioni dovute alla crisi economica, dal mantenimento del posto di lavoro al caro prezzi, si è aggiunto anche un percorso in salita per il raggiungimento dell'assegno previdenziale, con l'allontanarsi della fatidica data e il probabile assottigliarsi della cifra che, una volta lasciato il lavoro, le future generazioni di anziani potranno percepire. Circostanze queste che rendono sempre più importante per le famiglie riflettere sulla necessità di affidarsi al cosiddetto secondo pilastro, quello della pensione integrativa. Gli italiani, però, non sembrano avere molta confidenza con questi strumenti, se si considera che solo un quarto della popolazione in età lavorativa pensa a progettare in questo senso il suo futuro pensionistico. A riscuotere il maggior successo sono i prodotti di tipo assicurativo, i PIP, con 158.000 nuovi iscritti nei primi 6 mesi del 2012. Dal 2007 a giugno 2012 hanno fatto un balzo del 22% all'anno, contro il 3% dei fondi pensione aperti. Sempre in competizione con il TFR lasciato in azienda, il fondo pensione può garantire buone e migliori performance, ma resta sempre legato all'andamento dei mercati finanziari. Per valutarne l'effettiva convenienza, bisogna informarsi con attenzione e prendere in considerazione il suo rendimento nel lungo periodo, senza fermarsi ai movimenti nel breve termine. Un discorso difficile in un periodo come quello attuale, in cui le preoccupazioni sono legate al momento contingente, ma che diventa sempre più necessario per scegliere consapevolmente. Una consapevolezza che purtroppo per tanti italiani sembra ancora lontana. Secondo i dati di una ricerca Eurisco, di fronte alla possibilità di non avere una pensione sufficiente a mantenere il proprio tenore di vita, il 28% semplicemente non affronta il problema, il 26% dice che ci penserà in futuro e il 2% sostiene di essersi posto il problema, ma senza aver ancora trovato una soluzione. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Intanto sto iniziando a dare un'occhiata agli sms in arrivo e li possiamo proprio suddividere in due blocchi completamente contrapposti. Chi fa delle domande molto concrete sulle modalità di sottoscrizione, su come funzionano appunto gli strumenti di previdenza complementare, chi invece è totalmente negativo su questo versante, e i commenti sono anche piuttosto coloriti. Poi se abbiamo tempo io darò spazio anche a questi. Intanto volevo fare un po' un punto con due primari attori sul mercato della situazione per capire così un po' come hanno vissuto anche questi ultimi mesi, a prescindere dall'analisi magari dei rendimenti dei strumenti appunto proposti ai clienti. Ci interessa poco fare una, come dire, un esame di questo tipo, ma vorrei chiedere a Nadia Vavassori qual è la sensazione che ha rispetto ai lavoratori che si rivolge alla sua società, sulle domande che fanno, sulle difficoltà che percepiscono in questo momento. C'è interesse o c'è totale disinteresse? Non siamo ancora in grado di sbloccarci da questo 27% di percentuale rispetto al mondo appunto del lavoro che ha già sottoscritto uno strumento di previdenza complementare. Vivremo ancora momenti complicati a lungo, secondo la sua percezione? Ma allora sì, se gli interventi non arrivano dall'alto, nel senso che confermo i dati della ricerca Eurisco. Il problema è la incapacità di fare del risparmio in questo momento, al di là del fine e della necessità più urgente di copertura per cui questo risparmio può essere utilizzato. Di conseguenza, a parte il TFR nel 2007, che già era stato un messaggio molto forte, sì, con cui dire questo è un accantonamento, sono soldi virtuali dedicati a coprire quella che sarà un'esigenza inevitabile nel futuro, oggi aspettiamo degli stimoli dall'alto, perché di fatto il singolo individuo è occupato a occuparsi del quotidiano, per cui non riesce a capire che anche un piccolo sforzo, possono essere fatti 1000 esempi numerici, ma di 10 euro al mese oggi è meglio di niente se proiettato come risparmio costante e quindi come un piano di accumulo nei 30 anni successivi di attività lavorativa. Per quanto riguarda l'offerta, direi che l'offerta dei fondi pensione del secondo pilastro, dei prodotti individuali di previdenza, ormai è un'offerta strutturata, solida, che risente degli andamenti di mercato, perché la gestione è una gestione finanziaria, ma tutto quello che ci riguarda economicamente risente degli andamenti di mercato. Dal fare la spesa al supermercato, al mutuo, naturalmente, al valore della nostra abitazione. E quindi questo è un po' il quadro all'interno del quale ci muoviamo. Tra l'altro stavamo parlando appunto delle iniziative possibili di rilancio delle forme di previdenza complementare, escludendo per un attimo di pensare al momento difficile che le famiglie italiane stanno vivendo. Per la verità il Presidente della Corte dei Conti nei giorni scorsi ne ha ipotizzate tante, tra cui parlava anche, lei diceva adesso gli strumenti di previdenza sono consolidati, ce ne sono anche tanti sul mercato, l'esigenza sarebbe anche quella di razionalizzare, ce ne sono troppi, le famiglie sono in difficoltà anche a capire che cosa è il prodotto giusto per sé. Secondo me no, non ce ne sono troppi, le tra l'altro le tematiche a cui sono legati e l'offerta, a parte appunto il profilo costi o migliore gestione delle risorse che si ricevono, di fatto sono governate dallo stesso sistema di regole, quindi nessuno di noi può consentire nell'offerta cose o avere dei plus che gli altri non hanno, perché ci sono delle ferre regole normative che regolamentano sia l'accesso che la possibilità di riscatti parziali, eccetera. È proprio diciamo legato, adesso faccio un esempio, la previdenza complementare ha un vantaggio che è quello della deducibilità dei contributi versati dal reddito per un plafon annuo, che è estremamente basso, 5.164 euro, che a volte può essere percepito alto se guardiamo le fasce di giovani che accedono in questo momento al mondo del lavoro e quindi con stipendi bassi, contratti intermittenti. Però di questi ragazzi si occupano anche i genitori, che potrebbero portarsi in deducibilità fiscale questo accantonamento a favore dei figli, e a questo punto il plafond di 5.164 euro diventa troppo limitante. Quindi diciamo che prima di pensare ad una razionalizzazione degli strumenti, intanto ci potrebbe essere quella strada da perseguire. Ne ha ipotizzata anche un'altra, Presidente della Corte dei Conti, ma su questa magari, siccome ci sembra un po' più improbabile da concretizzare, ne parleremo dopo. Volevo sentire un commento di Michele Spagnolo. Io prima ho spiegato la società di Nadia Vavassori, Amundi SGR, ma in realtà anche AXA MPS è francese. Dottor Spagnolo, io peraltro parlando a volte con il vostro amministratore delegato, col dottor De Courtois, mi raccontava che molto spesso dalla Francia la casa madre francese chiede come mai i tassi di adesione alla previdenza complementare in Italia siano così bassi, quindi vi chiedono spiegazioni sulla sfiducia degli italiani, è ancora così? Ma a livello generale i dati sono abbastanza chiari, poi bisogna distinguere caso per caso. Io le confermo che per quanto riguarda la nostra attività è stata tesa molto ad aumentare il grado di consapevolezza del pubblico e dei clienti, e questo ci porta sempre dei buoni risultati. Una ricerca che abbiamo fatto ha dimostrato che un campione molto giovane di persone era interessato, vado un po' a memoria, se no per il 20-25% sapeva che cos'era la previdenza. Nel momento in cui durante dei campus universitari abbiamo utilizzato 5-10 minuti per spiegare qualcosa in più, questo tasso di confidenza e di crescita di interesse per la previdenza complementare è balzato al 50-60%. Quindi noi dobbiamo far crescere la consapevolezza. Le faccio due esempi: noi viviamo con molto favore e attendiamo con molto favore l'iniziativa che farà l'INPS, che è stata pubblicizzata fra dicembre e gennaio, di mettere sul sito dell'istituto un simulatore previdenziale per tutti coloro che già lavorano. Questo è un modo per aumentare la consapevolezza, e anzi una proposta che dovremmo fare come operatori privati è di dare la possibilità a ogni singolo lavoratore di fare un aggancio anche con la posizione previdenziale complementare. Oggi nel mondo internet nulla è difficile. E poi le faccio una riflessione, e non avendo anche molta reverenza nell'approcciare questo discorso che è molto delicato. Se immaginassimo fra 20 anni un tema come quello degli esodati, e immaginassimo che la previdenza complementare avesse finalmente preso ancora più piede, probabilmente la previdenza complementare in questo sarebbe stata anche utile per, come un cuscinetto di transizione, per consentire alle persone di vivere con maggiore serenità quel momento quotidiano in attesa di una soluzione o legislativa o di qualsiasi sia altra natura che risolvesse il problema. Ecco, quindi la previdenza integrativa non è soltanto un aumento della rendita futura o dell'assegno futuro, è anche un momento di sicurezza, perché è una forma di risparmio, nulla di più, che deve dare sicurezza. E siccome quest'anno privato, perché fondamentalmente il TFR, la mia retribuzione è differita, fondamentalmente i contributi sono miei, è giusto aumentare la libertà di scelta e la flessibilità. La razionalizzazione è un altro discorso, la Commissione di Vigilanza Covid ci lavora molto, noi stessi quest'anno abbiamo incorporato un fondo pensione troppo piccolo e lo abbiamo acquisito, e quindi di fatto stiamo dando una mano all'aggregazione delle forme pensionistiche, ma queste devono sempre avvenire in un modo di libertà e di flessibilità, perché il tu fai. Ovvio, se in casa vostra ritenete che ci sia un prodotto che non serve, che non viene sottoscritto, è chiaro che poi la razionalizzazione la fanno le singole società, ovvio, in piena consapevolezza. L'imperativo funziona poco, citando il libro di Daniel Pennac non si può dire a una persona tu leggi, così come non si può dire tu risparmia. Dobbiamo acquisire la consapevolezza nelle persone, perché poi il risparmio è molto connaturato all'italiano medio, anche se ci sono momenti di difficoltà, ma anche in momenti di difficoltà la nostra propensione al risparmio, pur se contenuta, c'è sempre. Abbiamo l'ottica di guardare al futuro. Ecco, la previdenza è un modo, non so se migliore, ma sicuramente in alcuni casi più utile per guardare al futuro. Allora, io tra poco comincio a sentire già gli ascoltatori, perché non ho visto neanche a dire quanti abbiano colto l'occasione questa mattina per chiamarci. A proposito di razionalizzazioni, saluto intanto il collega Marco Loconte, di cui seguiamo naturalmente sempre costantemente su questi temi il blog sulle Sole 24 Ore, spesso ci aiuta su questi argomenti, che ricordava su un suo pezzo recente come anche per esempio nel comparto aereo ci sia stata di recente la fusione di 2 dei 5 fondi attivi in concomitanza della crisi occupazionale del settore. Anche nel settore dei lavoratori delle cooperative, divisi in 3 fondi pensione, 2 di questi, Coper Lavoro e Previ Coper, hanno praticamente deciso di integrarsi, per cui in realtà in totale autonomia la razionalizzazione avviene sul mercato. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Una piccola pausa, poi ritorniamo con voi e sentiremo subito le domande di Gaetano da Siracusa, Luisa da Como, Nicola da Barletta. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi abbiamo ripreso un tema di fondamentale importanza per il nostro futuro, il tema della previdenza complementare. Come potremo avere, nel momento in cui andremo in pensione, la pensione che ci verrà erogata, quella pubblica, che è il frutto degli anni di lavoro che abbiamo vissuto, ma siccome, come sappiamo bene, i tassi di sostituzione saranno sempre più bassi, è probabile appunto che rispetto all'ultimo stipendio il primo assegno pensionistico sarà più risicato del previsto, per cui è bene prendere consapevolezza fin da oggi del problema e cercare di capire se è il caso di avviare una sottoscrizione di uno strumento di previdenza complementare. Discorso che facciamo almeno dal 2007, da quando c'è stata la riforma del TFR che ha permesso ai lavoratori italiani di dirottare, confluire il proprio trattamento di fine rapporto verso forme di previdenza complementare. Però tutti quelli che erano convinti, che avevano voglia di aderire, lo hanno praticamente fatto quasi subito. Dopodiché il mercato si è un po' fermato e adesso anche le aziende che propongono questi strumenti fanno fatica a ampliare la platea di clientela. I motivi sono tanti: la scarsa fiducia, i redditi che non bastano neanche per arrivare alla fine del mese, chi ha perso il posto di lavoro, figuratevi se adesso può pensare alla sottoscrizione di un fondo pensione. E però, insomma, per gli interessati ci sembra sempre utile fare questo argomento. E tra l'altro una sollecitazione molto importante è arrivata negli ultimi giorni anche dal Presidente della Corte dei Conti, che ha detto che bisogna prendere delle iniziative di rilancio per incentivare le iscrizioni. Allora, dubbi, perplessità degli ascoltatori, cominciamo subito ad ascoltarli. Li stiamo mettendo a confronto questa mattina con i nostri ospiti, che sono Nadia Vavassori, responsabile business unit di Seconda Pensione, che è il fondo pensione aperto di Amundi SGR, con Michele Spagnuolo, direttore vita e previdenza di AXA MPS. C'è un ascoltatore che ci scrive perché non avete invitato rappresentanti di fondi italiani, ma insomma queste due società operano sul mercato italiano, per cui li possiamo considerare con fondi italiani, Nadia Vavassori, quindi non è che abbiamo parlato di società che vendono altrove o che propongono i loro prodotti a clienti di altri paesi. Gaetano da Siracusa, buongiorno. Buongiorno, allora io praticamente il quesito è questo: io quando c'è stata la scelta ho destinato il 100% del TFR al fondo pensione. Considerate che lavoro con un'azienda commerciale, il fondo pensione è un fondo chiuso, fonte. E ho pure scelto, diciamo, di contribuire io con un 3% in più ancora, c'è l'1% aziendale. Certo. E il dubbio mio praticamente è questo: siccome in questo momento siamo in solidarietà, cioè un giorno alla settimana o 2 giorni alla settimana non dobbiamo lavorare, sì, è una sorta di cassa integrazione, dimenticavo a dirvi che ho scelto quel fondo perché ci credo e perché, diciamo, ho ancora molti anni davanti. Ho scelto l'opzione dinamico, che sarebbe 80 azionario, 20 obbligazionario. Quindi molto molto aggressivo. Sapendo, diciamo, il rischio, però ho ancora 25 o 30 anni, diciamo, avanti a me. e quindi volevo, il consiglio era, nel momento in cui mi ritrovo in cassa integrazione o in solidarietà, che cosa avviene nel calcolo poi finale? Ecco, solo questa era la domanda. Allora, grazie Gaetano. Dottor Spagnolo, faccio fare a lei il consulente in questo, per il caso appunto del nostro ascoltatore. Si modificano i flussi verso lo strumento di previdenza complementare in una situazione di questo tipo, di momentanea difficoltà di questa azienda che mette appunto in contratto di solidarietà il lavoratore che quindi rinuncia ad un giorno di lavoro? Percentuale, ovviamente ci sarà una riduzione percentuale del minor reddito e quindi dei minori contributi. Questa domanda mi dà anche la possibilità di dire anche più concretamente che cosa intendiamo noi quando si parla di flessibilità. In questo caso il signore se avesse necessità economiche o di qualsiasi tipo, accedere a un'anticipazione sulla posizione maturata fino al 30%, purché trascorsi 8 anni dalla iscrizione al fondo pensione, ovvero, e non è il caso dell'ascoltatore, sì, di 48 mesi di non occupazione chiedere l'anticipo della posizione. Diciamo che non, però, è il suo caso, lui ancora regge, riesce comunque a... Non è un problema. Ad esempio, flessibilità che cosa può significare? Ed è anche uno dei motivi per cui talvolta lo stesso cliente o risparmiatore italiano ha un minimo di diffidenza. Ad esempio, io ho destinato il TFR, il 100% del TFR, ma la mia scelta non è revocabile. Allora consentire una revocabilità della scelta per 3 anni, per perenne motivi, è un modo di dare flessibilità. Consentire una maggiore, altri casi di anticipazione possibile laddove ci siano delle situazioni particolari, e le stiamo vivendo ahimè in questi anni, è un altro elemento di flessibilità. Ripeto, nel momento in cui io destino dei miei contributi, perché sono contributi miei personali o è una mia retribuzione differita, perché il TFR è questo e non altro, e allora il legislatore deve immaginare delle forme di maggiore armonizzazione. Sono delle cose che magari non hanno grandi oneri per lo Stato, ma potrebbero essere molto utili per ogni singolo individuo. Ma Vassori voleva aggiungere qualcosa rispetto al caso che abbiamo ascoltato dell'amico da Siracusa? Sì. Rispetto all'ascoltatore, l'unica cosa che posso dire è chiaro che in funzione di una situazione aziendale di un certo tipo, l'azienda, ma d'accordo con i lavoratori e quindi con le organizzazioni sindacali, può prevedere di diminuire i flussi o anche di sospendere i flussi verso il fondo negoziale piuttosto che l'aperto, attivato. Però deve concordarlo con il lavoratore? Comunque deve concordarlo a livello di una contrattazione collettiva di secondo livello, e questa è una flessibilità secondo me sufficiente. È chiaro che il minor contributo che entra per effetto di una sospensione o di una riduzione di fatto genererà e contribuirà in maniera esattamente corrispondente a una riduzione dell'eventuale prestazione futura, ma è chiaro che bisogna rispondere a un'esigenza del momento e pertanto probabilmente è una riduzione che ci si augura possa essere recuperata negli anni successivi a un ritorno a una situazione di normalità. Sentire il caso concreto di questo ascoltatore mi ha fatto tornare in mente, Nadia, quando lei veniva in trasmissione da noi 5 anni fa a spiegare la riforma del TFR. Abbiamo fatto tantissime puntate con Marco Lo Conte e tanti altri suoi colleghi appunto delle società che gestiscono questi prodotti, e mi ricordo che ci raccontava quante aziende incontrasse e quanti lavoratori in quel momento. Si sono poi interrotti, immagino, questi rapporti con le aziende, nel senso di incontri nuovi per proporre queste offerte commerciali, comunque per spiegare la previdenza complementare. Nello specifico, in questo momento e negli ultimi 2 anni, il fenomeno, per quanto riguarda almeno noi, i nostri aderenti e quindi seconda pensione, sicuramente da un'adesione di tipo collettivo si è trasformata in un'adesione individuale con scelta di apporto di TFR. Questo per 2 macro ragioni. Uno, i datori di lavoro che sono oggettivamente in difficoltà, e parlo per tutti i settori in maniera trasversale, parlare di previdenza complementare dove si prevede un contributo del datore di lavoro vuol dire un maggior costo, e quindi la situazione attuale non consente all'azienda di mettere a budget un costo ulteriore. Dall'altra parte, l'eventuale prelievo materiale del TFR per indirizzarlo a un fondo pensione vuol dire che da posta virtuale che io ho in bilancio bilancio come azienda, di colpo mi vedo un'uscita di cassa, di soldi. Visto dal lato del lavoratore, questo è un elemento però che dovrebbe far pensare a una diversificazione del rischio, ovvero se il TFR rimane presso il datore di lavoro ed è una posta virtuale e il datore di lavoro dovesse fallire, chiaramente sono tutelato e sono un creditore, ma un creditore privilegiato. Mentre invece se l'ho dirotto verso un'altra forma che ha un patrimonio separato dalla società che lo istituisce, è sostanzialmente una diversificazione. Questo è un aspetto per il quale difficilmente, a cui difficilmente si pensa, no? Comunque si immagina, sì. Io mi ricordo anche i dubbi dei lavoratori che non volevano nel 2007, non erano interessati alla previdenza complementare perché proprio la interpretavano come uno scippo del proprio trattamento di fine rapporto, paradossalmente in un momento di difficoltà dell'azienda, e invece potrebbe essere proprio tutelante aver spostato il TFR maturando. Assolutamente sì, ed è per questo che sono parzialmente in disaccordo con quello che diceva il dottor Spagnolo, cioè che dare flessibilità nella possibilità di revocare la scelta di destinazione del TFR secondo me non è lo strumento efficace. È solamente, secondo me, forse il dottor Spagnolo voleva enfatizzare l'aspetto del psicologico, magari il fatto di saperlo, che si possono ritirare questi soldi può rappresentare una spinta in più, che dice si può già. Spagnolo. Ma io ripeto, la normativa del 2007 è stata molto utile perché ha aumentato i gradi di flessibilità del sistema. E io ho la sensazione che maggiore libertà si dà al risparmiatore, di fatto non si danno altro che delle libertà, delle possibilità. Ci ha detto il discorso del TFR e altre alternative di sicurezza, eccetera, io credo che oramai queste siano abbastanza assimilate. Anche per gli ascoltatori, la legislazione italiana sulla previdenza complementare è una delle migliori leggi possibili, c'è stata anche copiata su alcuni istituti da parte di governi esteri. I fondi sono tutti di diritto italiano e sono tutti soggetti a più di un regolator peraltro, e fra l'altro basta anche vedere gli osservatori che meritoriamente la stampa economica fa, come anche il Sole 24 Ore, spesso le performance, gli andamenti delle forme di previdenza complementare hanno un andamento un po' più stabile, pur nella loro volatilità, ma hanno un andamento più stabile perché è lo stesso meccanismo di investimento a lungo termine che agevola l'investimento finanziario. Quindi noi usiamo dire che un fondo pensione, una polizza previdenziale non è altro che un piano di accumulo al quadrato. È al quadrato perché si somma la ripartizione nel tempo dei versamenti dei clienti alla modalità nel tempo di investimento da parte dei fondi pensione delle altre forme previdenziali. Massimo alla mail ci scrive: buongiorno, sarà forse che ci sono scarse adesioni perché forse i fondi pensione sono gestiti da quell'80% di gestori che fanno sistematicamente peggio del mercato. Poi ci faremo dire da Nadia Vavassori dove mette i soldi il suo fondo dei lavoratori che scelgono seconda pensione, così come ce lo faremo raccontare appunto dal dottor Spagnolo per AXA MPS. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Se ce la facciamo, vorrei affrontare anche la tematica delle nuove modalità di adesione. Adesso le società danno anche l'opzione online per chi vuole fare da sé. Per accontentare tutti avremo bisogno di altre 3 ore di trasmissione. Adesso molto velocemente andiamo agli ascoltatori appunto che ci hanno scritto e fatto delle domande prima. Nadia Vavassori, seconda pensione ad esempio, come investe il patrimonio dei sottoscrittori di questo fondo pensione? Ma penso che sia importante dire che lo investe bene, non potrei dire diversamente, ma soprattutto che tutte le forme di previdenza complementare, per fortuna o ahimè, hanno una regolamentazione di dove, come e con che limiti possono investire i contributi ricevuti dai lavoratori, che che è palettata rigidamente da una normativa. Quindi, per esempio, tornando all'ascoltatore di Siracusa che ha fonte, ha un fondo chiuso che è quello appunto del suo settore, però dice ho scelto il profilo molto aggressivo, quello dinamico, che investe l'80% nel mercato azionario. Se fosse seconda pensione, una, come dire, una, un'aggressività così alta si concretizzerebbe come? In una linea che si chiama, in un comparto che si chiama espansione, e che allora consente di arrivare fino a una leva appunto in azioni del 90%. Ma quello che volevo dire è che esattamente i gestori che gestiscono fonte gestiscono con le stesse regole con cui vengono gestiti tutti gli altri prodotti, il che vuol dire che quando nel 2009 c'è stata la crisi dei fondi hedge, i fondi pensione, i gestori di fondi pensione non potevano comprare hedge, quindi non li avevano in portafoglio. Ad esempio, ce lo chiedono degli ascoltatori, i mercati emergenti potete comprarli? No, c'è un limite strettissimo che è veramente il 5% del patrimonio del singolo comparto, pertanto a volte si perdono opportunità, a volte però non si corrono dei rischi. Pur di limitare la volatilità chiaramente. Esattamente, degli e quindi quando qualcuno fa il commento che i gestori dei fondi pensione fanno peggio dei benchmark che hanno di riferimento, peggio di quello che fa il mercato, è parzialmente vero, perché il mercato è tutto. Il fondo pensione può muoversi sul mercato utilizzando soltanto alcuni di questi strumenti. Detto questo, qual è il prodotto migliore che mi consente di attivare anche una composizione di portafoglio che tenga conto del mio rischio in questo momento, che può mutare nel tempo? Un prodotto che mi dia le possibilità più ampie all'interno di una normativa che è una normativa rigida, peraltro scritta nel 96 dal Ministero del Tesoro, e per cui stiamo aspettando un rinnovo, un refresh, cioè un refresh con la maggior flessibilità e mix di composizioni di portafoglio. Certo, tra l'altro un ascoltatore, visto che prima Michele Spagnuolo aveva ricordato come l'INPS presto si attiverà con il simulatore del nostro assegno pensionistico futuro, chissà con che dolori naturalmente quando scopriremo quanto prenderemo nel momento in cui ci andremo, un ascoltatore ci scrive invece, ma insomma invece la famosa busta arancione che fine ha fatto? Sarebbe quello strumento molto noto nei paesi del nord Europa che viene inviato periodicamente appunto ai lavoratori del paese per fare un punto della situazione previdenziale. Dottor Spagnuolo, la busta arancione lei ne ha delle notizie, mentre i fondi pensione devono inviare periodicamente delle rendicontazioni su quello che è il loro lavoro, sulla posizione maturata appunto dal lavoratore, in questo caso il pubblico ancora fa un po' poco. Il simulatore di cui parlavo prima non è altro che la versione della busta arancione italiana. Adesso, da quello che ho letto anche sulle notizie di stampa, fra fine anno e primi di gennaio l'INPS invierà di nuovo una lettera a tutti coloro che non sono già censiti nel portale dell'INPS per ricordare loro che con alcune semplici modalità si acquisisce una password. Acquisita quella password si entra nel sito dell'INPS e fra i vari servizi c'è anche il discorso della posizione assicurativa previdenziale. E lì ognuno di noi, io lo faccio già da tempo, per il momento posso controllare la cronistoria dei contributi versati. In futuro potrò controllare anche una simulazione di prestazione pensionistica futura. Però la posizione che si può monitorare non va molto indietro nel tempo? No, sarà la posizione accumulata al momento, cioè fino alla data in cui si fa l'interrogazione. E qui mi riallaccio a quello che dicevo prima. Siccome anche i fondi pensione complementari devono dare la possibilità ai clienti di entrare via internet per poter verificare la loro posizione previdenziale secondo pilastro, poter trovare un collegamento con un link in cui dall'INPS si rimbalza verso il fondo pensione complementare o viceversa darebbe una totale disclosure, una totale visibilità ad ognuno di noi che potrebbe avere tempo per tempo sotto controllo quanto ha messo da parte in collegamento con la sua posizione lavorativa e quanto ha messo da parte in collegamento con la pensione complementare. Quando parlo di flessibilità intendo anche questo, bisogna in un mondo di oggi in cui con un click si fanno attività di tutti i tipi, dobbiamo dare possibilità e opzioni risparmiatori italiani. Mm-hmm. È un loro diritto e un nostro dovere. Non abbiamo peraltro tempo di aprire il capitolo costi, che sarebbe fondamentale. Nicola da Barletta voleva dirci che dal 99 ha la previdenza complementare, ma non ha riscontrato benefici reali soddisfacenti. Non riesco a farlo di intervenire. Luisa dalla provincia di Como voleva chiedere appunto ancora chiarimenti sulle detrazioni fiscali rispetto alle sottoscrizioni appunto dei fondi di previdenza complementare. Li possiamo ribadire, Vavassori, in 10 secondi. Sì, parliamo di deducibilità e non di detraibilità, sono due concetti diversi, e la deducibilità vale sul reddito da lavoro per 5.164 euro l'anno. In questo plafond sono esclusi gli eventuali flussi di TFR che non fanno parte. Un ascoltatore scrive: ho deciso quando sono stato assunto di lasciare il TFR in azienda, ora posso cambiare idea e decidere per l'apertura di un fondo di pensione integrativa. Direi che non è mai... Assolutamente sì, è da chiarire con il datore di lavoro, e qua bisognerebbe entrare poi nel caso specifico di un'azienda con più o meno di 15 dipendenti, eccetera, se la scelta può avere effetto sul TFR pregresso. Perfetto, grazie molte a Nadia Vavassori, a Michele Spagnolo per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo presto, speriamo, su questi argomenti. A tutti buona giornata.